segnale già. È meglio averlo attaccato, così non ti sento solo io, capito? Gianni! Ah, però allora c'è l'occhio. Allora l'occhio, guarda. Gianni, come ti sta arrivando adesso? Dammi un controllo, per favore. Ascoltami, quanto è adesso il segnale? Segnale, posso sapere il segnale? La radio, comprensibile? Oh, è senza pomme e bedoni, Di vivere, cosa fa, cosa non fa dalla mattina alla sera. Allora, la mattina presto mi alzo molto presto e vado in direzione Cagliari quasi tutte le mattine, poi faccio tutte le mie puntatine per il caffè e mi fermo dove ci sono le belle ragazze, capito, non dove ci sono i maschiacci, dove ci sono le belle ragazze a prendere il caffè e niente, mi chiacchiero tutto il giorno al baracchino con tutti gli amici che c'ho in tutta la Sardegna e poi rientriamo a casa dopo che siamo belli stanchi la sera. Ah, la situazione delle belle ragazze. Grazie, ha capito. Capite, signor Frode, cosa fa il camionista? Protezione delle belle ragazze. Il camionista è un po' il marinaio della strada. Nell'immaginario collettivo, poi, a me il titolo Il camionista ricorda letture del passato, capito? Vero, anche a me piacciono molto i camionisti. Aspetti un attimino, io non ho detto anche vuol dire che piacciono anche a me, no, sbagliato. Io immaginavo di essere un camionista, ma non è che mi piacciono i camionisti. No. Forse nel mondo, aspetta Antonio, camionista perché c'ha possibilità di girare parecchio, di conoscere molta gente, Antone, quello che si dà camionista, capito? Uno che fa linea come faccio io, io non faccio il camionista in zona di qua di Sassari, capito? Allora, uno che fa in zona di Sassari conosce me, invece io che faccio tutta la Sardegna, ma tutta, dico tutta lo Giastra, conosco gente in tutta la Sardegna, capito? Io tutti quelli in stazione fissa, voi non ci crederete a una cosa, voi non crederete a quello che vi dico io adesso. Io non conosco di persona te, Antonio, non conosco Antonello di persona. Io conosco tutti quelli in stazione fissa di persona, conosco della zona di Cagliari, di Fioristano, di Terralba, di Marrubio, di Buspini, di Inglesias, capito? Li conosco tutti di persona, sia Semini, quella zona di Cagliari, li conosco tutti di persona, capito? Perché un giorno lei, sempre capito, tanti anni che viaggio, è capitato, ci siamo trovati, abbiamo preso un caffè, e li conosco quasi tutti di persona, capito? Tranne che io non conosco di persona, qui a Sassia non conosco né a te e né a Antonello, capito? Qua proprio qui a Sassari. Non è poco. Stavo dicendo, quello che dicevo a Radio di Sole è questo, che siccome lei diceva anche a me piacciono i camionisti, no, a me non è che piacciono i camionisti, a me sarebbe piaciuto fare il camionista, perché quando ero ragazzino c'era un giornalino famoso che si chiamava Lando il camionista, che diciamo che durante i viaggi ne combinava di tutti i colori. Lo conosco anch'io quel giornale, ho avuto modo di conoscerlo anch'io quel giornalino lì, non so se lo fanno più, però in passato l'ho conosciuto anch'io quel giornalino lì. No, ma lei, Raggio di Sole, intendeva dire, perché i camionisti ce ne sono belli e ce ne sono anche brutti, intendeva dire forse il tipo di lavoro, non lo so, ma no, non che gli piacciono tutti i camionisti, no, non intendeva, giusto, tu non dicevi quello. No, infatti io ribadisco, signor Grode, non intendevo dire, mi scuso se mi sono espressa male, non intendevo dire che volevo farle capire che a lei gli piacevano i camionisti, a me piacciono il modo in cui parlano, si esprimono, perché hanno un modo di vita diverso e viaggiano praticamente, ma non che volevo dire intendere che a lei piacessero i camionisti. Però, intorno al discorso di prima, per conoscere me, il signor Grode è un bell'uomo, io l'ho visto di sfuggita, glielo dico, è un bell'uomo. Mio marito, dico che è un bell'uomo, per me, di me non si perde niente, sono piccolina, sono una Botticelli e sono brutta da vedere, quindi non mi conviene vedermi in faccia. No, forse non ci siamo capiti. Adesso, allora il discorso che è bello il camionista perché gira parecchio tutta la Sardegna e ha modo di conoscere molta gente. Però ho detto, puro strano, che io qua, che sono del posto, non conosco né Antonio né Antonello, neanche a te, ma sono del posto, hai capito? Quello che devo dire io. E per me gli è venuto proprio a battezzarmi dando proprio il Raggio di Sole, perché? Punto di domanda. E gliel'ho già detto, perché mi è venuto in coso, diciamo, quel film che avevo visto tanti anni fa, e ce l'avevo sempre impresso di darlo a qualcuno, questo nominativo, hai capito? Lo volevo dare a qualcuno, qualche persona già femminile che c'era in stazione, capito? Lo volevo dare e vi ho trovato l'occasione giusta, capito? Capito, la ringrazio, signor Gordè. cosa dice? Ha capito quello che gli ho detto? Esattamente, nel senso che nel suo immaginario vede il camionista come una persona, come un pirata della, cioè un pirata nel senso buono del termine, cioè una persona che comunque va in vari porti ed unisce la signorilità di un certo individuo anche all'aspetto un po' rude del lavoro che fa, nel senso un lavoro mascolo, capito? È per quello che a lei piacciono la figura del camionista. Il problema è che poi conosciuti i camionisti sono dei veri signori, perché deve vedere i filmati di una specie di raduno che hanno fatto e magari potrebbe rimanere delusa della cosa, Le dice, perché non penso, io camionisti mi conosco parecchi, non qui in Sardegna, ma fuori, perché ho fratelli fuori, quindi frequento fuori, diciamo. Poi a me piacciono parte camionisti e anche molto le divise. No, aspetta, però non sono rudi, attenzione, rude vuol dire, diciamo, imponenti, rudi, è un termine che vuole dire una serie di cose, però non è rude in negativo, rude in positivo, nel senso persone abbastanza ruvide, mettiamola così, anzi sono dei signori, quindi se lei sta cercando il maschio rude, non lo trova nel camionista. Me lo potrei trovare, mi scusi, io non ho detto quello, io dico, ho detto e ho ripetuto che cose, le persone abbastanza educate nel modo in cui parlano e cose, però mi piace il modo in cui si espongono nel... Cosa vuoi? Mi scusi. Signor Globbe, se lei adesso lì in ascolto, gli vorrei dire da parte di un certo Antonello Barracuda che vuole numeri. A ricordarmelo, riprendi Gigi. Perché? Avanti il brecchi, il numero all'otto vuole, avanti il brecchi, questo chi è? Daniele. La Gigino, buonasera a tutti. Ciao Daniele, buonasera anche per te. Con che cosa ho sbagliato Gigi? Dico la verità, che il camionista ormai è un signore. Positivo, no, vi volevo dire a Radio di Sole che io ho lasciato la divisa per fare il camionista, non per fare il camionista, ancora non ce l'avevo già in mente di fare il camionista, di la verità, e ho lasciato la divisa. E come l'ho lasciata io, l'ho lasciata anche uno dei miei figli, la divisa, capito? Mio figlio l'ha lasciata nel 2010 e io l'ho lasciata nel 75. Come mai? Cosa faceva? Carabiniere, solo che ero troppo ragazzo e non mi potevo né sposare e dovevo fare 3 anni, dovevo stare fuori. Stato fuori, non in Sardegna, ma fuori, poi non si arrivati mai qua in Sardegna a quel periodo lì, e niente, ho firmato e sono andato via. Poi, sapendo l'esperienza mia, che io avevo mollato e tutto quanto, poi qua i tempi erano cambiati, ho fatto di tutto per farci entrare mio figlio, e anche lui è stato riuscito a farlo arruolare, si è fatto il car è stato 3 mesi a Benevento. Sono riuscito a farlo passare, è riuscito a passare perché ha fatto il corso, superato il corso, sono riuscito a parlare il mare a Olbia e c'è stato un anno lì e poi se ne è uscito anche lui. Ma mai, eppure mette di fare il carabiniere abbastanza, è abbastanza pesante, perché io, cioè, i miei fratelli avevano 16 anni quando hanno messo la firma per sotto le armi, e io c'ho un ispettore, uno è guardia carceraria e uno di un carabiniere che è un nipote di 26 anni. Ed è bello come, cioè, è abbastanza un lavoro, però bisogna, a chi piace logicamente. Sì, sarebbe stato come oggi, io a Sassari, parte di quello, diciamo, a Sassari, in Sardegna, allora sì, ma prima non era così. E poi mio figlio addirittura era reclutenista nel centro, nel nucleo, decimo nucleo reclutenisti a Vera Fiorita, Olbia, era nelle ricottere lui addirittura. Io c'ho un cognato in Puglia che fa queste cose qua nelle ricottere. trasporta, diciamo, punti in puntini. Poi sì, quello faceva così, era, faceva radio alla radio, e più che facevano delle cose in elicottero, ma non lo fanno fare. Solo c'era il ponte radio, come lo puoi chiamare, la torre di controllo, come dice Claudio. Quando era tutto era via la radio, radio e radio telefono, come la vuoi chiamare, quel coso lì, e si conosceva sapevano l'elicottero, lo dovevano. Contatto rimaneva, non capisco se c'erano aerei nati, queste cose così dovevano in contatto con l'elicottero. E quando era cosa ci vede invece in elicottero, e anche qui se ne è uscito dal 2000, non so se è nel 2000, non è nel 2000. Pazienza, comunque sono, questi sono, adesso come adesso, per chi riesce a fare questo mestiere, è un mestiere che ti può portare sicurezza, diciamo, un lavoro statale, diciamo, è un lavoro che ti può dare sicurezza, che riesce anche, logicamente, a chi piace. Non so, mi piace, se io avevo possibilità, un altro mi piace dei gemelli, tempo fa, di farlo arruolare in finanza, perché ho abbastanza, c'ho qualche parente, che è questo grosso della finanza qua in Sardegna, qua, nella stazione di Porto Torres, come era Sassari, come si dice, Maria Sassari, la finanza, è passata a Porto Torres, la guardiana a Porto Torres. E avevo possibilità di fare arruolare anche a lui, no, c'è stato rimesso, perché per la finanza ci voleva un po' di studi, ce n'era uno che era un po' studiato, non ci sono riuscito, addirittura l'interno l'ha fatto l'altro fratello all'esercito e lui è riuscito col fatto di studiarsi un padre e non l'ha fatto, lui ha avuto il congedo per fare il militare, però non si è voluto arruolare, io volevo fare arruolare in finanza, ma ci sono riuscito, non ho voluto lui a nessuno. Se no c'avevo molte, diciamo, c'avevo possibilità di farlo arruolare, capito? La gente giusta per farlo arruolare e non l'ho voluto fare. Signori, che adesso c'è una nipote che è entrata in seconda giurata, ha fatto la domanda, è entrata, ha fatto la domanda, l'hanno preso a fare la guardia giurata, una nipote tra tante, diciamo, tra le 35 nipoti che ho. È positiva, no, ma anche lui quando si è andato al carabiniere poteva entrare in guardia, non ha voluto, non interessava, non voleva fare il camionista, anche lui, che camionista fa? Forse fa anche lui il camionista come me, sposato, abita Ucino e fa il camionista anche lui. E gli altri gemelli invece hanno preso il lavoro, lavorano in proprio tutti e due, e sono pavimentisti. Pavimentisti abbastanza bravi, abbastanza ricercati, dai, che hanno abbastanza cantieri così. La verità, stanno lavorando bene, perché diciamo hanno molto lavori grossi, dai, Alghero, Sassari e via dicendo, hanno tutti lavori grossi. Signor Blonde, allora di tutto ciò cosa ne pensa lei? Non vuole fare niente, né camionista, niente, né poliziotto, né guardia giurata, niente? Lea, ci sto riuscendo e tiro avanti per altri 20 anni ed è fatta. Tanto! Ah, dove sei finito? Sono a casa. E in quale? La di via Roffelle, perché? Aspetta, io sto arrivando alle 9:10. 10? Ma non è che ho problemi all'antenna, no? Aspetta, voi si è acceso per mancantesimo all'apparato. Come l'altro giorno, buh. Io sto arrivando. Ciao, Valerio. Buonasera, chi è? Ma ci vuole essere il più piccolo di Sassari. Ma hai conosciuto la voce? Ma ce ne tu, Dani. Chi è? Lorde, dillo il tuo Lorde. Giorgio? Giorgio Alfa 24, non lo conosci. Dove vuoi tu? Sai no? Piccolino! Guarda, Giorgio, vieni avanti. Non riconosci Giorgio, è stato un grande modulatore degli anni furono. Dani, mannaggia. Guardaci, sono secoli che non c'è entravo in frequenza. Sarà buoni, 3 anni. Porca miseria, Glorne, ma cosa mi stai comandando? Giorgio, cosa vuoi dire? È un casino. Daniele, vedi cosa vuol dire non partecipare? Che poi entra gente. Ma come ti sto arrivando adesso? Guarda un attimino che ho sistemato il PL. 9:10 sei tu. Non mi serve un controllo da qualcuno, boh. Gigi! Dimmi tutto. Guarda com'è il segnale, sempre lo stesso, è cambiato, è più basso, boh. Antonio, ti ripentai l'antenna. 9:05 da me, ma la radio è forte, è buona, Daniele. Aspetta, ma c'è Claudio, non c'è Daniele, lascia perdere Claudio, sono io Daniele. Dai tranquillo Daniele, che va bene, non tu, io non lo guardo, io ascolto solo la modulazione, non lo guardo mai il segnale, io ascolto la modulazione, la radio ascolto, molti stanno guardando il segnale, non lo guardo, io l'unica cosa non guardo mai è il segnale. Non lo guardo, tagliando sto guardando se qualcuno mi sta dando fastidio per qualche motivo, allora lo guardo per individuare più o meno quando c'è qualche portante. Se no io non lo guardo, io ascolto la radio, capito? Ascolto la radio. E la radio è ottima, è una radio di Super 5, capito? Lascia, il segnale te lo dico perché te l'ho detto 9:05 da me, però non lo guardo, il segnale non vuol dire nulla. Il segnale non è, è la radio che conta, è la radio. La radio è quella che conta, non neanche il segnale. Il segnale, se la poi arriva un segnalone non c'è radio. E quello che conta è sempre la radio, non si sente più. Hai sentito proprio? Arrossetti, io non posso mangiare stanotte. Non mi ha riconosciuto. Comunque Gigi non c'è, andato a prendere il gelato. Oh porca miseria, gelato. Ehi Antu. Capito chi è, sì? No. Scusa, davvero, non ci siamo incontrati anche una volta in verticale, scusa. Con chi? Detto con 24. No, mi sa di no. Non ricordo adesso, Antonio. Sono anche fuso al lavoro. A te ti stanno facendo male, ma cosa stai respirando? Daniele, stai perdendo la malizia del CB, del vecchio CB. Ma quando mai sono a casa mia? Se a casa mia attacco il PL, io ti arrivo lo stesso a 9:40 come fai tu. E quando mai non riconosci a Palchetto? Aiù. Palchetto? Cazzarola. Allora, pardon. Hai fatto che sono la strada tu? 9:10, 9:60 e passa, ne arrivi qua. Ma sono in un altro QTH, sono da via degli astronauti, dai. Ah, ecco. Anda Benedetta, ciao Palchetto. Ciao Daniele. Oh, Antu. Ieri quando ho parlato con quello fuori, ci ho tirato appena il cacciavite qua. Ti ho sentito? E gli hai dato un'accelerata, a me stavi spaccando le casse. ma quello era l'8001, capito? Quello era l'8001 che spento adesso. Se ti conviene, sinceramente, metterti d'accordo con quelli del supermercato e ogni tanto fargli la pubblicità. Oh, Andrew! Mi dà niente. Stavo pensando di piazzarmi ora anche giù al lavoro. Ma se te lo permettono, perché no? Sei a casina, come faccio lì? Come fo? Che cos'è, una palazzina? È una villetta, ma... Sai cos'è? Si può anche fare, perché si può fare, non c'è problema. Ma è un casino, ormai da qua... E chi sento? Dai, che arriva la grande aumento, dai. Senti, poi guarda, ti compri una Ringo che costa una miseria e poi ti faccio una modifica ed esci una fucilata. Ci sto pensando, Già me la voglio mettere in macchina di nuovo. Vista la mia nuova? No, Antu, non l'ho vista. Non ho avuto modo di vederla. No, l'antenna c'è fuori, sì. Pensavo in macchina. Negativo, quella che c'è fuori. Quella lì è una Ringo modificata dove ho messo 3 radiali. Sì, non so, stavo parlando di macchina adesso. E niente, devo piazzarne anche una per lavoro, in radio. Perché poi è un casino, cazzo, la selettiva. Comunque io, vedi, ho trovato una buona compromesso, nel senso che l'antenna da macchina che ho io è piccolina, non sembra neanche della 27. Tant'è vero che Falchetto stasera la stava cercando. È un po' di la grande. Pompa abbastanza, dai, evidentemente quella carica che ha va bene. Aspettina, alla grande. molto qua e là comunque. L'unica cosa fa che, come gli devo un po' di portante scalda, proprio la senti che si arroventa la base. Davvero? Kappa, davvero, è più di 150, non puoi uscire con quella. Io volevo trattare questo però, Al Gigino c'è un po' di parlare, va bene, no, non ci stanno problemi, Gigi, qua arriva la grande, non ci stanno problemi, dai. Sì, no, io problemi non ne ho, capito, dopo le 10 posso aumentare qualche cosa, problemi non ne ho, però il problema ce l'ho adesso, capito, ce l'ho in questo momento che non posso dover fare niente. Positivo il Caparoce, non ci stanno problemi, capito, viene Daniele, mannaggia le piccolelle, Daniele, comunque chi è il più forte qua? In stazione, in camion, chi è il più forte che c'è qua? In zona di Sassari, il più forte che modula in camion, chi è qualche? Sempre Gigino Vulcano, sempre Gigino Vulcano. Non sono a Sassari, Pinocchio, perché fuori cosa lo fai, minestra? C'è anche un altro che c'ha l'impianto bello, C'è anche un altro, ma neanche lo conosce, Antonio Grotte non lo conosce comunque. Falchetto già lo conosce. Che quando c'ha l'articolato, che prende l'articolato, c'ha il baracchino suo che gli ho fatto fare io, è tutto collineato. Così non si crede, a grande potenza. C'è un altro a Sassari, capito? C'è, però raramente entra nel canale normale, capito? Ha preso tutto al padre, capito? Antonio Brode non lo conosce, al mio figlio Pierpaolo. Lui modula nel 45, per poi Falchetto già lo conosce, già lo sente a volte la mattina, è cosa che parla. È una bella maiala, ma... Anche di persona. Mannaggia, ma c'è stata una tipa che è entrata, porca miseria, quanto sta facendo forte. Avanti la maiala, scusa il Gigino Vulcano, ma la cosa è tripla qua, avanti la maiala. La maiala, ma infatti ho detto, aspetta un attimo. È Manzano, forse se si è sbagliato ha detto una maiala. No, maiala. Questa senz'altro è della Sardegna, tutta Sardegna. Va bene, rinnoviamo tutte le cose qua, dai, mettiamo un po' di ordine, dai. Adesso rilanciamo il Gigino Vulcano e poi il Gigino Vulcano farà girare per tutta la ruota. Abbiamo lasciato un attimino il bianco al raggio di sole, ma senz'altro il raggio di sole sarà caricato. Vai Gigino e poi fai girare, dai. E sai che Anto, mio figlio, era seduto a fianco a Falchetto, giusto? Era seduto a fianco a te nel pranzo. Era seduto al tuo fianco, mi parlo sbaglio. Esatto. Nominativo qual è? Capito, Antonio Grotte. Pierpaolo, mio figlio, un altro che fa il camionista, quello che ho detto che era carabinieri. E quello che è seduto, se tu guardi il filmato, ha seduto a fianco a Falchetto. Ma il nominativo? Saltarese. Ho capito, sì, l'ho visto, ho visto la maglietta, ho visto la persona con la maglietta, sì. E anche lui modula, lui già è tutto in cambio i baracchini. E su uno particolare c'è un impianto forse più potente del mio, capito? Perché gli ho messo il lineare, quello modificato io. Io ce l'ho normale, invece lui ce l'ha modificato, potenziato, che fa, e quella già sei scatti. E gli ho messo al secondo scatto addirittura. Al secondo scatto c'ha 400 esce con 400 watt. Non gli ho messo al secondo, perché più sale, più gira, più arriva a tirarsi gli scatti, più sale, più vai. E ce l'ha al secondo scatto, gliel'ho messo, sono 400 watt puliti. L'arte per forza. Lui ce l'ha nelle altre camion, no, nelle altre camion sì, già tutti 48 modificati, ma senza niente, più cose. Però quando c'è l'articolato la cosa è positiva, Però scusate, riprendo io che... Vado a fare un po' di carica adesso. Più presto, siamo qua. Tengo per me un attimo. Ciao padre, dai, buona carica, buon tutto, Gigi, riascoltami dopo. Siamo qua sul canale 10, chi vuole entrare le porte di Dio sono aperte. Venga Benedetta, va bene, dai. se ce la faccio, forse entro dopo cena. No, ci stanno problemi, siamo qua, dai. Siamo a carico da Napoli, siamo a carico. Gaba, gaba, siamo Orfeo, mi chiama. D'accordo. Vabbè, dai, sentiamo dopo le prossime sequenzine. Ciao, ciao, buon proseguo. Va bene, vai, vai che, vai che tocca. Oh, Gigi, abbiamo lasciato il sospeso a Raggio di Sole. Non so se c'è ancora Radio di Sole, ci sei, via Figliuccia, ci sei. Sì, sono in ascolto, vi ascolto, molto piacere, mi fa piacere ascoltarvi, continuate. Positivo, dai, positivo. Comunque ci sta una ragazza di Mores, Danila, che fa la camionista, mezzi pesanti, mezzi grossi, lavora con Fara già da tanti anni. Diciamo che è la più anziana di autisti che c'è in quella ditta lì, Danila. Nell'8, nel 15, a volte, perché sta in compagnia, si sposta dai canali, insieme ai colleghi, dai, si sposta dai canali dal 5, dai canali lì, e vanno su altri canali, sul 21, no, non me lo ricordo, comunque sono i canali diversi dal 5 e dal 10, dai. Infatti Danila lavora con i mezzi pesanti. Qui dai tir anche lì. Bello, vuol dire che ha passione fare il camionista. Mi piace, né, purtroppo non so andare né a piedi, né in macchina, né a caddo, come tornava ad una. Caddo ci vuole già andare. A caddo è appena il dischio, lo so perché ho sentito, perché non so dei problemi per il fatto di camminare, quello l'ho sentito, ho capito. Però sedute a cavallo ci puoi andare. E lui non è giocato però, Intanto lo mette accanto ai giocato, una volta che si supera gli altri sono assisti. C'è una cosa che io amo gli animali, di una cosa micidiale, ma l'unica cosa che non è che non sopporto, non riesco a toccare il cavallo. Posso, eppure non mi ha fatto nessuna cosa, né quando ero piccola né non riesco a avvicinarmi a un cavallo, non ci riesco. Poi che forse lo vede troppo grande, non lo so, più pericoloso l'asino, ma la sorte l'asino è più pericoloso. Ma neanche il ciuccio, noi ce l'avevamo, mio padre ce l'aveva il ciuccio, perché andava in campagna con il ciuccio per portare le olive, neanche lui non riusciva, era più forte di me. Positivo, dai. No, io quando ero piccolo mio padre non aveva né cavallo né nato, però c'erano i buoi, non so se l'hai mai conosciuti. Quando ero piccolo c'era il carro addirittura che attaccava i buoi e andava, perché lui si piantava l'orto, si piantava, c'era un po' di maiale, si portava le zucche, le angurie, quelle già passate, per i maiali, c'era il suo carro con i buoi, non mucche, buoi proprio, erano quelli buoi, proprio buoi erano, capito, c'erano quelli lì mio padre. Ci sono dei buoi, l'ultima volta hanno fatto la festa per il santo e hanno portato il carro con i buoi che portavano sopra il santo, bellissimi buoi, a me piacciono, solo che neanche quelli tocco, però sono belli da vedere, eh? Lo so, sì, si trova mio padre, dai, li ho conosciuti da mio padre, e ne erano due primi. I primi erano di quelli, no, il capitale, quelli arancioni, quelli enormi, grandi, con quelle corna grandi, rimanevano arancioni, di colore arancio scuro, enormi, di quei proprio grossi. E invece poi gli altri erano tipo roba sarda, non lo so, roba nostra, quelli sul nerazzo, rimanevano un po' minimi, grossicci, però no, non tanto grandi come quelli là, quelli erano enormi, alti enormi, quelli lì, della zona del Capitano, non so, del Capitano, del Spanese, quelli erano rosso, colore arancio scuro, invece questi erano rosso, manto nero, e mi ricordo anche uno o chiavo e Niedomela, così si chiamava. Sono belli, però sa cos'è? C'era un animale in particolare che in casa mia amava tanto mio fratello, il primo di me, che gli amava tanti questi animali che li portava a casa, li allevava, li addestrava, si figura un po'. Erano i falchetti. Falchetto, mannaggia. E allora potrebbe addestrare anche a falchetto, al signor Guadezio Falchetto, suo fratello. Ai. Non è anche difficile addestrare il signor Falchetto, adesso è un po' troppo grande di età. Lui li prendeva già dal nido, li prendeva e li portava a casa, e poi li proprio li addestrava, era una cosa allucinante. No, dal nido è difficile prendere, perché se lo fai in basso il falchetto si vede prendersi alla roccia in alto il cosomi per prenderlo, sai tu. Infatti aveva sgannato, non so se lei ce l'ha, non so come posso dire, era una corda grande, grossa, come quella della madre, diciamo, quando tratta, no? Quindi la lei si arrivava tutto attorno, qui si arrampicava le rocce, anche i campanili delle chiese addirittura. Infatti è un po' pericoloso, una volta siamo andati a fare, a prendere le cornacchie noi, le piccole, per mangiarci. L'unica volta che le ho mangiate, abbiamo preso un bel veramente, queste cornacchie giovani dal nido. È la prima volta che le ho mangiate, ho mangiato una volta in vita mia e non penso di mangiarne più, comunque le ho mangiate la volta, tutte arrotte con un sacco di sopra la graticola, le cornacchie, attenzione, le cornacchie piccole, che mangiano carogne, mannaggia la miseria, se ci penso adesso, ma ero un ragazzo, avevo 18-19 anni, e poi le ho mangiate la volta, oggi non ci riesco, perché non ci ho pensato se mangiano molte carogne, queste barbari, pensandoci adesso guai. Avevo anche una cornacchia, avevo tutta nera, si chiamava Checca, ed ci è durata 12 anni, l'unico vito che aveva che rubava le sigarette. Sì, ma aspetta, la cornacchia ce n'era una qua, ottava, che parlava, quella parlava proprio questa cornacchia, e non se ne andava, volava, ma rimaneva lì in mezzo alle galline, e chiamava la Antonina, si chiamava lì, e la chiamava, sembrava un bambino chiamandola, quando voleva mangiare, chiamava e faceva il peso del gallo, e si metteva a saltare le galline come faceva il gallo, a tre macchie. Sono animali micidiali, se riesci a addestrarli sono veramente, infatti la nostra era sempre libera nel cortile, solo la voce di mio fratello veniva quando la chiamava, era una cosa micidiale, era piccola, anche lei l'aveva presa dal nido, l'aveva addestrata. Sì, ma capita, guarda, io anche da poco, adesso questi ultimi giorni non l'ho visto più, o è successo qualcosa, un gabbiano veniva la mattina lì alle saline, no? Le saline c'è l'ufficio dove ce l'ha appeso alla corsa, e scendeva, si metteva davanti alla porta di questo ufficio, iniziava a gridare, a chiamare, sino che non usciva pure a dargli il mangiare. Questo tutte le mattine andava lì e voleva mangiare, ma gridava, mi sono sentito, sembrava una persona umana gridando, e non si spostava, sino che voleva mangiare si metteva davanti alla porta e non si spostava, e non temeva, si faceva toccare, e gridava, sino che gli dava da mangiare, te le mangi. Sì, perché così, sono fatti così, quando gli addestri sono come le persone. È positivo, sì, no, ma già lo so, io adesso per un esempio, e questo, e Cappiani ci sono perché c'è il mare, ci sono quelle, come si chiamano, va, quelle ci mettono a testa, adesso mi sfugge il nome, mettono la testa sotto l'acqua, c'hanno le gambe lunghe, prima, queste saline quando vanno a caricare, gelloni enormi, che c'hanno le cose con le piume rosse nel sedere, quando mettono il sedere in su con queste piume rosse, e loro è grande più di un tacchino. Come ti diranno, Antonio, come si chiamano quelle? Fenicotteri forse, fenicotteri rosa, così si chiama. Esatto, oppure c'è il cormorano. No, fenicotteri, quelli grandi con la testa lunga, che è pieno lì a Cagliari per andare a scendere a Pula, cosa lì, in quello spazio lì dove sono le saline, è pieno di quelli uccelli lì, è pieno, ma pieno, una cosa impressionante, una cosa che se sono prima arrivata qua una coppia mi pare, e adesso è invaso, perché mi ricordo un anno hanno avuto a battere parecchio, perché si stava, è tutto un manto, vedi queste cose, queste piumaggi rosa, questi culi in su con la testa sott'acqua, ma grandi, c'hanno le gambe lunghe. Se ne risuote. Signor Panchetto, io sto prendendo il tutto quello che mettete sotto la sabbia. Ricordi, si parla sempre di volatili. Si dice, Cacciuffi. Questo è grosso mio. Non me ricordo, aspetta. Raggio di sole, com'è il nome? Il nome attivo lo so, però mi sfugge adesso. Me lo ricordi il nome di Battista? Di chi? Tuo, ti dico tuo perché sei giovane come me. Raggio di sole. A parte Raggio di Sole, il numero di Battissimo. Io mi chiamo Patrizia, guarda, prima chiamavo Patrizia, non se ne parla più, lasciamo perdere questo Raggio di Sole. Chiamami Patrizia. Dai, che bellissimo Raggio di Sole, dai. Perché ormai quello è il tuo nome nativo, Raggio di Sole, poi il tuo nome di Battissimo è Patrizia, però lì è Raggio di Sole, va benissimo Raggio di Sole. Dovete dire lo strutto, sì, sotto la sabbia, quando trova sabbia, ma quando trova duro non ce la mette la testa. Lo strutto è enorme, molto grande, capito? E ci sono molti allevamenti, sono di Cagliari, oltre a Cesari, ma sono enormi gli strutti. E sono bellissimi anche, sono belli grandi, tutti neri, con le gambe lunghe, qui hanno un modo di camminare molto elegante. Mi sa che è entrato Cucci Cucci. Che sarebbe Antonello, perché c'è Pucci Pucci, è entrato l'altro giorno, ha salutato a Claudio, ha salutato a sé, anche Pucci Pucci, però Pucci Pucci viene dalla coordinata di Cagliari e viene qua alla città mercato a scaricare, e quello è Pucci Pucci. No, io sto parlando dell'innamorato di mio marito. No, lascia perdere, ma poi passo passo, ma l'hai visto quanto è basso Antonello, o Pugno? Io non so quanto sia alto tuo marito, E poi quando ti guarda uno che guarda una parte a destra e l'altro guarda a sinistra, non è così bello, come ha fatto a innamorarsi, non lo so. Non fa niente, l'importante è avere simpatia, lui. E adesso non conta niente, come avere quello che ha gli occhi dritti e non c'è neanche le scarpe per vestirsi. Che povero. L'importante è partecipare. Sto scherzando io. Io scherzo. Tanto non ci riesco a fare cavolare a coso, a confuso, non ci riuscite. Le potete dire tutti i comuni, tanto non ce la fate a fare cavolare. Li conosco tutti come sono, lui lo sa. Il difetto che ho io, guarda, è molto bello la verità, perché ce l'ho quello che ho e ce n'è anche un altro che è così peggio di me. Però sono simpatico e quel difetto lì non c'entra niente. L'importante è essere molto simpatico, essere una persona. Però poi ognuno c'è il difetto suo, può essere il difetto di esterno, può essere il difetto interno, dipende. L'importante è che sia simpatico. Poi di chiunque va bene, cioè sono peggio di me e peggio degli altri. Comunque mi diverto la verità, mi sono sempre divertito. Finora, di fatto che c'è, guarda, la verità non avrebbe mai causato nulla. La verità si dica, adesso si è mai lamentato. Si scherza, pompone, dai, si scherza. Tu sei una persona, doc, non ci stanno problemi, dai. Salottone e belli a porchetto, Io lo so, io non me la prendo. Quel discorso lì che stava facendo Luigi poco fa, l'hanno fatto addirittura 5-6 anni fa, eppure io mi sono fidanzato con una ragazza che era molto, molto meglio di me, che era bionda con gli ufficialisti. Figura, sono fregato a un altro, a Patrizia, a me che è un altro, la ragazza, e poi mi hanno cattato. E invece ho vinto io. Ecco, cosa suo, peggio per lui. La simpatia è quello che conta, la verità. Io sono una persona, già ricamente come sono fatto, sincera, perfetta e non ho mai avuto problemi con nessuno, solo sarei stato paracchino. D'accordo, mi stava cercando proprio il Raggio di Sole, vai Raggio di Sole. Mi dica. Vai per Pomponio. Signor Pomponio, cosa c'è? Mi dica, ha ragione, guardi, tutto quello che ha detto le do veramente ragione. Però c'è un problema, c'è anche problemi di fabbrica, attenzione. Beh, se c'è un problema problemi di fabbrica mi possono sistemare, vado alla Ferrari e mi faccio sistemare. E dice, dipende dai difetti però, eh. Più difetti si possono sistemare, grazie a Dio. Comunque è per quello che si è innamorato allora Antonello, è per quello che si è innamorato, perché è simpatico. Poche parole, da parte della donna chi lo fa? Ma dove? Detto lei, l'ha già detto, ha detto che il marito non ha detto che si è innamorato di te, non ha detto così. Ma vai che sto scherzando, già lo sai, senti, senti Simona guai, ha detto che non sei Antonello a lei, ma... Oi oi, come sarete, eh? Mamma mia, come sto. Ma la io ho fatto quella battuta lì, hai capito, Antone? Ehi, guarda che io mi offendo meno, lui. Grazie a te, mi conosco tutti. Ma non un giorno, da Brescia dal 64 fino adesso. Mi conosco tutti, quindi non ho... A me, se mi avessi dire una battuta del genere, non mi frega per niente, anzi. La verità io mi diverto perché, grazie a Dio, ho un sacco di amiche e mi trattano veramente molto bene. E l'estetica non la guardano, la verità, e quindi mi trovo bene. Poi non lo so, se il baracchino è diventato una specie di roba tedesca, per dire quello e così, lo da un azzallo, allora per il baracchino ci vuole butto, dice, ma quello. A me, sono da 34 ore e sono più grati tu. Quindi mi sto veramente bene alla parete. Poi se uno può dire quello che vuole, se sono una gente che c'ha molti difetti, che non lo sappiamo, lui, oh io, c'è quello che è bugiardo, c'è quello che è così, c'è quello che è colà, a me la roba esteticamente si vede, poi la roba interna degli altri non si vede, ma dopo già si nota, perché quando uno può diventare così e colà, si elimina, il discorso è quello. Forse è meglio uno così. Oh, io, è stato quello il problema. Grazie a Dio, io sto bene, come sono. E mi sono sempre trovato bene. Io ho amiche, amici, fuori da parecchio. Sto veramente bene. L'unico difetto che c'hai è che c'hai i peli nelle orecchie perché prendi troppo cortisone. No, veramente io quindi ce l'ho la pancia, ce l'ho fatti vedere, perché tu pensavi che ero bugiardo, invece ti ho fatto vedere che sono sul serio, perché vado più di cortisone, purtroppo ti crescono i peli, caro mio, è un difetto, e anche la pancia ti cresce, lo sai che il cortisone gonfia, e con la birra. Ma scusa, ma come mai io ho preso una scatoletta di pastiglie a cortisone, invece di uscirmi per gli orecchi mi sono uscita le corna? Ha fatto l'ascensore, cos'è bello le cose? Si tagliano da sole. Come si fa col cappetto? Stupidi di cappetto, secondo me quello è l'Italia segreta, come si bisogna fare? Buonasera a tutti, un saluto circolare a tutti quelli che sono in ruota da Claudio Spagliero. Claudio, buonasera, ben ascoltato anche a te, ben entrato. Pantera. Comunque mi scuso, per prima la battuta non è, era uno scherzo che stavo facendo al signor Tronconio, non se la prenda, lo sa lui perché l'ho fatta, non perché lo volevo prendere in giro, assolutamente non mi permetterei, eh. Non si preoccupi Patrizia, guarda che lui è un cinghiale, non si preoccupi. Hai detto giusto tu Patrizia, io l'ho aggiunto, no? Hai detto come ha fatto a innamorare del pazzo, piccolo, cosa ha detto? Brutto ha detto, no, mi pare non l'ho detto brutto. Brutto me l'ha detto Claudio l'altra volta, tu mi hai aggiunto una cosa in più. Pensano tutti poi d'attorno, non è che non lo sanno, quindi la cosa non cambia niente. Ma io piaccio, la verità piaccio, non alle persone sposate, grazie a Dio, ma a quelle divorziate, e quindi mi diverto. Aia, aia, aia. Mamma mia, come sto. Sì, anche a me sai quanto piaccio io, le novantenni, quelle vero novantenni, piaccio a tutti io, Antone. Mamma mia. Se piace ai novantenni, sono clienti, vuol dire che ti devo dare dei soldi, se no non piace, perché c'hai i baffi da spaviero, e quindi a uno ti tratto di bene come togliti gli assini che devi tirare. Tu non ci credi, sai, novantenni che mi piacciono, che piacciono loro a me, capito? Tutte le novantenni si innamorano di me. Una via la gente, Gigino Burca. Oh me ne bu, a menta di gente, a nonna, che noi tanto lo dolore che anche la frigidura. Stiamo scherzando, dai. Stavamo perché con Pompolio ce lo possiamo permettere, capito? Perché poi a parte che è un amico, però ce lo possiamo permettere. No, ci avremmo so che la bella a riuscire a fare un fembere a Pompolio ce ne vuole abbastanza, comunque lui già sa che stiamo scherzando già. E poi se lo fai nello battessimi. Era ma queste cose, tanto sia che si poteva fare tutta. Antonello, ci si offende Antonello, che era un po' tutti radio da qua. Non ce n'è. Molto poco. Dimmi, io sono qua. Come offendo io naturalmente, lo sai. Grazie a Dio non mi offendo. Gli altri forse dicevano guarda, ce n'è peggio di me, guarda, ce n'è peggio, veramente peggio di me. E tu già lo sai, tra. Forse è stato difetto mio. Sarebbe stato, guarda, la migliore cosa che c'era, ma c'è un bel gente a Baracchino che c'è da creparla, più che altro, da mollarla e mandarla a quel paese, tu già lo sai. Tu conosci me 30 anni, 30 anni buoni, e tu sai quanto ti stimo e non cerco nessuno. Tu hai onestà soprattutto, perché sei molto onesto e sei una persona che pochi difetti può avere, pochi difetti, però giustamente come hai detto tu, in radio noi che siamo vecchi tigrotti ce ne vuole prima di prenderci in giro, quindi quando uno scherza te ne accorgi subito, quando ti sta prendendo in giro veramente te ne accorgi lo stesso, Antonio, quindi poi ci capiamo al volo, no? Ci è meglio un fliscio, quindi si scherza, si fa, e va bene, scherziamo e ridiamo, bella giornata, la matta ne rivaria, non c'è più il maestrale, stanotte dormo nel poggiolo, così mi faccio mangiare della tinsola. Falché, fai da bravo, Falché, fai da bravo, guarda che se non fai da bravo ti taglio le ali, ti faccio diventare un coso, come si chiama? Un appoggiano, bene va. No, se per me scherzi, sto tirando fino del vento. Io non avevo un caso da questi offesi, mi pare che mi fa guardare un troppo e mi cederò mai chi. Ha già visto tutta la tapparetta, lo intendi anche uno, ha detto preferisco proprio il mangiare dalle zanzare che ha trasmesso tutto, c'ho una radio sola accesa, e 440, boh, finito, però già come intendi a sentire mi mandando aria a casa dell'armento, la guardi tu, essendo il gioiellino, la cambi 23, ma con i caldi e non fate rumori, anzi comodo subito perché già mi stanno scaldando. Eccomi qua, adesso io sono contento per darvi un saluto che vi lascio perché devo preparare e saluto tutti in ruota e a sentirci più tardi se ci siete, se no vi lascio con mio marito e alle prossime, buonanotte. Ho rotto il microfono di Antonello, Antonello mi ammazza. Cosa stai combinando, raggio di sole? Cosa? Stai morigando, dici Pinocchietto, cosa stai morigando? Bene. Raggio di sole, dai, fatti buona carica, buon tutto. Tu io questo. Questo è Claudio, io l'altro giorno quello che sentivo di dire di Pomponio e Antonello l'ho detto a Antonio Grotte. ma quello che sentivo proprio dentro me, in quel momento nel mio cuore, proprio mi è uscito da dentro. E ti dico la verità, se anche quando gli ho detto quelle parole, quelle cose, si è anche commosso Antonello, Pomponio, lui è presente. Vedi quanto voglio amare io, vedi quanto lo voglio, perché lo so che Antonello, io ho detto una cosa, voi non ce la fate in radio, ma io tempo fa l'ho detto Antonio Grotte, c'era Antonello, e ho detto una cosa, non so se sarà ricorda Antonello, ho detto una cosa molto importante qui in stazione fissa. Ho detto se c'è una persona, è Antonello Pomponio. Giusto Antonello? Sì, non c'è problema quello, io sono fatto così. Però io mi conoscono tutti a me, quindi non è che mi offendo, se mi dicono certe cose, o non mi riguarda più la verità, non ne pensa più una cosa, un'opera del genere, parlo certi, c'è che c'è quello, che è senza lenti, poi c'è un po' di gente in frequenza che proprio si mette le frega, la verità, non c'ha difetti esterni, ma c'ha difetti interni, diciamo, perché qua ti posso dire, non. E come si comporta è sempre da ammazzarlo più che altro, perché è così. Io il baracchino ce l'ho perché mi piace anche addirittura la frequenza, quello che ci sono un bel po' di anni, e quindi non so portarti, quindi quella che mi faccia più di guardare. Dovete che cercate su fuggiti, io sono nato qui, il discorso è quello, perché io sono un grande, sono uno dei migliori, la verità. La stata qua adesso mi ho fatto di cose per gli altri. Più che altro ho stato di cambiato, diciamo, le CB, non parlo di adesso, parlo di prima, quando c'era Piero Andrea, cosa del genere, ho fatto un sacco di lavori, cosa del genere, mai stato di cambiato. Le modifiche le facevo io e le presentava lui, e Claudio già è presente, grazie a Dio, è uno dei migliori. Poi mi sono truffato, non ce la facevo più perché non potevo fare così, a fare 24 ore su 24 a fare riparazioni, baracchino, e diventare esaurito. Dopo due giorni magari facevo la pizza, e quindi a quel punto ho piatto, ho mollato tutto, sono stato veramente bene, ti giuro, sono stato veramente bene. Però la CP mi piace parecchio, piace andare avanti, non tornare indietro, mi piace veramente andare avanti e basta, la penso così. Come? Mi. Come si? Adesso che hai nominato Piero Andrea, quando vi avete detto che stavamo parlando di caccia, c'era Giovanni Cuccio, quello delinquente di Manicomio, che ha detto, ma voi lo sapete che io da Balai, ho visto la lepre correndo a punta scorno. Io me lo ricordo, ma tu non ti ricordi gli appari che mi portava a me? Il 3009, il Codex 4000, il 4005, addirittura ho visto il canale con si è formato telefono, quando vengo a sapere un giorno da un CB, qua l'Antonelli dice quelli apparecchi da tutti rubati. Ho detto come rubati? Dice li ha rubati, se li ha fatti là non è più tornato. Ti giuro che sono tutti cusi in culo a uno gli ho tornato indietro, ma è sbattuto. Perché era una cosa. E sapevo, non ha dato nulla a nessuno da quando sono stato CB, la verità. Ne ho riparato apparecchi, anche gratis per dire. Però nessuno mi ha regalato niente. Tutti gli apparecchi che lui ha fregato li ha tutti dati al vero. Gli arati a CP di Alghero e che adesso non mi ricordo il nome, la verità. E poi tutti quanti avevano chiamato fatto in barca, che cosa e cosa del genere, ma tutti li avevano fregati, tutti a volte, ogni settimana me ne portava uno da riparare. Ti giuro, guarda, che sono i microfoni di metro 100 che sono passati. Ogni arrivo ne aveva uno, era più grande di lui, a dire palle, ti giuro, era più grande di lui. Poi non lo so, poi dicevo, quello che è successo è come Bussi, quando dice che è Bussi adesso, dice la oggi poi non abbiamo bisogno dei preti e di essere su quello che buonasera, cambio. suoceretta, mi manca mio suocero, mi vedeva lì sempre, era voi invece, manco male, ma ne ha lasciato qualche cosa, se non ho molto di fame. Perché vi saluto, se ci siete del giorno dopo quando sappiamo di restare a zero, dai, per il momento vi saluto a tutti, buona serata. Ciao Massimiliano, un saluto grande a te famiglia, ci riascoltiamo alle prossime. Oh, perché ci ragazza Mario, Babbo Natale, e li vado a durare sicuramente una volta, siccome te l'hanno operata la gola, poverino, ha avuto un problema e non parla più. Se lo trova Mario Babbo Natale, fa tornare la voce come ci aveva prima, limpida, limpida. L'ha dato un baracchino a ciambale di finale, ci l'ha venduto, ci l'ha venduto. Capito, se l'ha venduto. Ciao Massimiliano, abbassa un po', guarda, mi sei facendo lo smettermi. Ciao Massimiliano, buonasera. C'è un'attenzione, canale 10, chi è che chiama? Buonasera, cambio. Forse ero io qua, o no? Ma non lo siete a Spaviero, ci chiediamo un pochettino di gas. Chi è che chiama il canale 10, cambio? Quasi benissimo. Ah, quando le ragazze ti ho sparviero non lo ascolti. Ciao Mirino, buonasera, ben ascoltato. In compagnia nel canale 10 di Gigino il Vulcano, Antonello Alessio, Massimiliano Bulldozer in QRX perché sta andando a mangiare, Rio Falchetto, poi dall'altra parte nelle montagne di Ussi ci dovrebbe essere Antonello Barracuda con la moglie e poi non so più chi c'è, non lo so. Vai tu perché vuoi, buonasera Bibillo. Tu rispondete chi ascolta Birillo. Ciao Birillo, ben ascoltato Falchetto, dai. Ti cordializza 7351, dai Birillo. Ciao Falchetto, saluto, io non l'ascolto. Ah no, ma non l'ascolto. D'accordo Birillo, qua ti saluta anche Gigino il Vulcano, chi non ti ascolta, ti saluta Gigino il Vulcano, cambio. Cosa, c'è la vena attaccata alle palle del letto, non mi ascolta, è così. Gigi, ho detto che tu c'hai l'antenna attaccata alle palle del letto, è per quello che non ti ascolta, Gigi. No, strano, no, pure, boh, non lo sento proprio, io Birillo non l'ascolto, non so come mai. Intanto sentiamo dov'è, poi passiamo a Antonello Alessio. Oh Salvatore, dove sei? A casa tua, e non mai non ti ascolta Luigi Vulcano. Come siamo messi lì? Ma io sono messo bene. Non lo so, io non ascolto proprio Salvatore, ma nulla, non sento niente, nulla. Cosa vuol dire? Non so come mai, boh, non te lo so spiegare. Non lo so, sento gli altri, ma lui no. Eppure ce l'ho con una recezione qua, dall'antenna di casa. Ma sta calato, lui ti ascolti meglio. Trocchi? Quello con l'eco, quale ha Trocchi? Boh, l'ultimo 1001 attacca. E chi è questo che hai detto che c'ha le corna? Passate. Ho sentito un 3-1. Cosa non con Luigi copiava con le corna e... Cucinate un attore che provo con questo, ma non mi sembra, Non va a chiamarlo. Dillo, mi senti? Io non lo so. Birillo, mi senti? Faccio gli agenti contro Birillo. Lucino, non ci credo. No, no, non è possibile. Lui da quando chiama a me? C'è qualche problema di notte tu? Io sento quella donna che sta male, non so cosa gli sia successo. Ha preso il Viagra. Scusate, ho preso il Viagra. Io che ti ascolto, se lo sei più poi sotto, dimmi, ti ascolto io. Dopo ascolti il radio Birillo, la voglia che ti ascolto, dimmi Birillo, dimmi, ti ascolto abbastanza bene, sappiamo 5-6, dai dimmi. E perché c'è la colonia appresso, c'è una... Dai, ma... qua chiamate, cosa ne sai? Claudio, un attimo di bianco, vai. Claudio. Salvatore, Birillome mi ascolta. Birillome. Oh, chiedi se mi ascolta. Che ti sente, ma basta, aspetta. Vado adesso, Luigi, chiamalo. Non mi senti? Che sto uscendo con... tre watt di radio, tre watt, non so se, se tu mi ascolti allora tu c'hai problemi grossi, Salvatore, 5-9 per te, Salvatore, cambio. Oh, Claudi, cambia radio, che sennò qua stai splatterando tutto, eh. Ecco, 45. 5 qua e qua, siamo sempre sul 10. No, mi sembrava. Allora ho sbagliato, scusa. Era solo una modifica che stavamo facendo. Buonasera, Claude. Buonasera, loro signori. No, stavamo vedendo come ascoltavo, ho salvato le brido con la 48. Effettivamente c'è una differenza molto, molto alta di segnale, vabbè. Questa la 48 è una super bombetta, dai. Buonasera Antonio Grode, compagnia mia di Gigino Vulcano, Antonio Pomponio, Salvatore Brillo, il mitico e poi sottolineo mitico Antonio il Falchetto. Ti sei trafficato, per carità di Dio, a quest'ora si devo fare certe cose, mannaggia, devo mettere in mano la 50, allora vai. Oh signori, calmi, calma e gesso. Mio compare non è un fesso. Signori, calma e gesso. Ma cos'era una portante, infatti? Porca miseria, una portante che pure ho appeso via. Via, Viagra. Cavolo. La pillola blu, mi basta chiamare in causa, cosa come si chiama? Pomponio, che ne è un caraccio. Dimmi. mi sarà. E della pillola blu esce fuori lui, vedi? Veramente uso quella rosa, perché è cinese, e fa più effetto la dritta dritta. Non sento, io non ho chiuso quella rosa, perché fa diventare attivo e passivo. No, al limite mi faccio papà sino, ma lo è... ma lo è tipo, papà sino divento. Orca, vicini, orca. La prendo io, cosa prendo io, non ce n'è altro, Formaggio marcione e vermi, quello è un vero, quello è Viagra sardo. E quello per con i baffi. Ma ecco perché tu saltelli. Vai, i clavie. Io come Viagra ho però formaggio con i fermi, quello di Civone, quello è proprio quello sardo. Ho visto vendendo le mascarelle, cosa c'era scritto? Viagra sardo, nel barattolo del formaggio, della crema di formaggio con i fermi. Pensare che io a 38 anni sto prendendo la famiglia. Oh mannaggia, le pecorelle. Non te la camomilla. Oh mannaggia. Siamo mille prima. C'è la rucola. Può berci un goccio d'acqua, dai, una tazzata di paprika. Leva. No, no. Io mi sto succhiando un paio di... come si chiamano? Formiche. Remino. Impostiamo un QSO come si tocca, degno del canale 10 e mi sovramodula. Ui, ai, ai. E niente, sovramodulato, preside, fai la bravo. Ma a proposito, ma quella BM, ma una scarpetta c'è? Dove? Per quell'antenna. Sì. Non solo le scarpette, c'è anche il linguaggio per quella macchina lì. C'è un linguaggio per quella macchina lì da Luigi Vulcano, che l'ha conosciuto, a due ventole. Puoi mettere attaccata al radiatore per raffreddarlo, ma quanto regge secondo te quell'antenna? Non lo so, devo provarla tu, la verità. Devo provarla, una simile a quella, attacco piedi, io ce l'avevo e mi pare che era sui 300 watt, uno stilo così da 1,20 m, non regge più i 300 watt in acciaio, sicuramente, però la proviamo, se non prende fuoco, c'è il regolabile, quello che c'ho io, qui da Luigi dopo quando entra, che l'ha conosciuto, gli direi che aveva nella Citroen a vedere che cos'è. È un MOSFET, anziché essere il 747, era praticamente, perché dentro l'armadio, è praticamente il 550 fatto in continente della Midland con il finale MOSFET. Eroga alla quarta potenza, eroga sui 380 watt. Scusate, non ho salutato Salvatore, se è ancora in ruota. Una cosa chiedo a Pomponio, che non, che come tecnico, ma cos'è il MOSFET? Qual è la differenza tra il MOSFET e quella, e l'altro che ci dovrebbe essere? Il MOSFET lavora in classe A, B e C, quindi non ti fa la saturazione, il discorso è quello. È molto meglio, solo che ce ne vuole un bel po' di quel transistor. Invece nel caso MRF 455-450 basta uno solo e tira le batterie terminali. E lavora diversamente, tutto lì. Grazie della chiarificazione, mettiamola così. Avanti, salvatore. Non c'è. Gigi, sei rientrato. Non sono ancora andata della vetta, era un ascolto, stavo ascoltando, ho fatto il finale, là. Stavo ascoltando quello, comunque mi ha fatto arrivare Giovannino l'originale dall'America, non so dove li ha trovati, comunque costano anche poco, diciamo che fanno quasi il doppio dei fatti, adesso mi ha fatto arrivare un po', e li ha mandati questo ingegnere che gli ha costruito quel 2001, che gli ha visto quella di un giorno, l'ha mandato sperimentare questo ingegnere qua, capito, gli ha mandati, lui l'ha fatto arrivare e se lui deve guardare, vedere, sperimentare un po', se questi vanno bene ne fa arrivare un bel po', intanto me le cambio pure io in quello che ho in camion, che sono vanno bene per quel via che abbiamo noi, là, che ci abbiamo in camion e via dicendo, però diciamo ogni linea, ogni finale dà il doppio dei fatti di quello normale, capisci? C'è questo ingegnere che l'ha costruito, quei due lineari, che Claudio l'ha visto, quei due lineari lì, l'ha visto Claudio, e ci saranno anche i computer, l'avrà messo anche in coso quel lineare lì, vero qua? Sì, l'ha messo nel suo sito Giovanni, ma dite Antonio se funzionava quello che avevo io nella macchina blu, il lineare a MOSFET. Non ce n'era, mica esco forte in camion io, esco forte in camion, ma Giratina lui mi superava, con quel 48 che aveva fatto, quel 48 l'aveva fatto la buona mia Giancarlo, col doppio modulatore stesso era, non quello che c'ha adesso, è un altro che c'era Salvatore Baraglico adesso, quel baracchino lì. Con quello lì, guarda, lui quando schiacciava il modulatore con quel linearetto lì che veniva da linearetto, che poi non era così piccolo, noi diciamo linearetto ma non era così piccolo, e guarda, non ce n'era per nessuno, tutti lo rispondevano in propagazione, entrava era una cosa impressionante. Poi c'era un'antennina che tu non si direbbe quell'antennina lì, che c'era per un certo modo adesso, ma un'antennina di tipo quelle che c'aveva la finanza, quelle con quella molla, quella piccolina, quella specie di frusta con la finanza piccola, quella lì c'aveva come antenna, non è che c'aveva una grande antenna, no? Un'antenna della Sirio che ancora vendono, che è la più piccola della Sirio. So di che cosa sia, però ti dico che quell'antenna ce l'ho provata io e ne ho dato più di 300 di watt, ho visto che non si è sciolta lo stesso. E il giorno mi ha sentito che ero da Trinità d'Agulto, che stavo venendo a Santa Teresa, ho provato a chiamare con quell'antennina lì, cavolo, e sparava lo stesso da Trinità d'Agulto qui a Sassari, come che sparava. Dica cosa non la toccare, mi. Perché è vero che non si scioglie perché è acciaio, ma ti assicuro, perché io gli do un whisky e si scalda alla base, ma si scalda parecchio. No, lascia perdere l'acciaio, tanto io l'ho detto, quell'antenna non l'hai mai conosciuta. Quella antenna è arrivata dal continente, me l'aveva comprata un vecchio animatore di Sassari, tra l'altro è morto. La vita lì è un'antenna. Praticamente c'è una molla sotto, c'è la più in certo modo, quando capita te la faccio vedere, se l'ho regalata io, quando ho tolto l'impianto della macchina. È un tubo in rame, capito? Un tubo in rame, non è altro che un tubo in rame con questa carica che parte da sotto, dalla molla fino a sopra, tutta rotolata, proprio lo vedi tu, e poi rivestita in gomma nera, non in acciaio. E non ce n'era per nessuno, qualcuno ha provato a comprarla, un'imitazione senza molla o con la molla, ma non aveva proprio zero sotto zero. Io c'avevo una macchina da lavoro, una Saxo blu, ed era uguale a quella da quella destinata. Quindi tu immaginati che avevo una tenda davanti a molla uguale alla loro, nera così, dietro in coda avevo una tenda VHF. Quando c'era il punto di blocco tutti sollevavano la mano e mi salutavano, ma mai filmato un film con questa macchina, mai. È uguale a quella che tu vedi della guardia di Firenze senza scritte, praticamente una civetta, uguale, precisa, identica a quella. Ma non pensavo fosse quella vecchia, quella con la molla che si vede in acciaio, piccolina, capito? No, no, questo è il rame, è un tubo, il rame con questa carica che parte dalla molla sino a sopra, tutta proprio a serpentina, ed era una cosa allucinante, allucinante. Io avevo la massima potenza del lineare che avevo, era 6 potenze, lo mettevo a 5, erogava sui 280-320 watt modulati con la 48 modificato. Questo è il secondo che ho avuto, il primo è quello che praticamente ha staccato Luigi dal camion, dalla barra sulla rata, ma poi io l'ho dato nuovamente a lui, abbiamo fatto un cambio di diverse cose e lui l'ha dato alla barra agricola, ed è quello che tu senti, ha salvato le barre agricole, che esce molto bene con quello lì. Ma guarda, era indescrivibile, modulazione, watt, da tutte le parti mi sentivo da tutte le parti, era veramente, e quel lineare ce l'ho ancora, per migliorire ce l'ha una persona che gliel'ho dato, però ce l'ho, perché quando lo voglio me lo dà, non lo ritorna, ed è praticamente un 747 però più grande, un bias con gli stessi finali del 747 un po' più grandi, e c'aveva una ventola di raffreddamento addirittura, perché era allucinante. Va bene, facciamo girare a chi tocca, Falchetto, riprendi, cambio, passo, compro, vendo. Positivo e caparoccio, dai, positivo e caparoccio. No, l'antenna, se tu ben sai, abbiamo accompagnato per il centro del molo fino a sotto a casa sua, Però Claudio, diceva giusto anche Antonio, sotto la molla, il petizione di sotto, la molla è d'acciaio, quella che flette, l'altro poi da sopra della molla è tutta il rame, però sotto è in acciaio, la molla grossa che c'è, che è grossa, bomba è grossa, è in acciaio però, Sì, il mollone l'acciaio e poi praticamente dal mollone c'è avvitata la frusta nera, la vecchia frusta nera, che però non era esattamente come la frusta nera, perché me la ricordo, l'ho avuta, la frusta nera era uno stile che si muoveva, questa è rigida proprio, l'antenna è rigida, chi aiuta a flettere è la molla che c'è sotto e basta, capito? Antonio Grode. Che claro, vabbè, riprendo, forse l'ho fatto un attimo, dico, perché la frusta nera aveva un filo tutto quanto arricciato, ma sottile dentro, che saliva nel coso in gomma, capito? Io una volta l'ho tagliata una per curiosità, e c'aveva un filo del rame sottile, tutto fatta tipo serpentina, mi tutta zigzag, era fatto di saliva sino su, perché poi era stretta, la frusta nera era più lunga pure, capito? Io l'ho tagliata una perché non andava bene, proprio per curiosità, ed era tipo resina, era resina con un filetto dentro, tutto azzigrinato, mi fatto tutto canto a azzigrinatura, che saliva, ma un filo sottile, mi. Sì, però lo stilo era in vetro resina, mentre quello invece è un tubo in alluminio, capito? È un tubo sottile, non so da quanti millimetri quadri è, forse da 2,5, una cosa del genere, 2,5-3, che praticamente il tubo del rame non ce n'è per nessuno, il rame è un induttore che più caglia più pompa, vero Antonello Pompo? No, stai sbagliando, il conduttore migliore è l'oro e l'argento. C'è stato un break, ho registrato, devo la verità, sì. Il rame non c'entra proprio niente. No, ma come induttore d'antenna, come per irradiare, il rame è molto bene, soprattutto quando poi c'ha il benissimo. Quando facciamo gli avvolgimenti che sono fatti tutti in rame, per dire, le cariche, soprattutto delle antenne, di quelle che si facevano un tempo di autocostruzione, erano tutti con le bobine in rame. Perché? Perché la bobina è talmente fa da accipicchiato, lo volevo dire in fretta, già mai capito forse, accumula moltissimo il calore e quindi lo dissipa in un attimo. Infatti quando io parlavo con l'amplificatore, l'antenna scaldava, al momento in cui scaldava il segnale era allucinante, era proprio, faceva da un piano tipo quando tu stai facendo un piano di cottura, no? C'hai la piastra che sta scaldando, lì quando scaldavo avevo dei segnali in trasmissione allucinanti. Aspetta, facciamo entrare il break. Avanti break. Buon conduttore e rame. A parte che costa una cosa anche di soldi, la verità. Comunque un buon conduttore, sia il rame, sia l'argento, sia l'oro. Comunque il migliore che c'è è l'oro, la verità. Se tu ti fai l'antenna, quello non c'è prima cosa, partendo addirittura, quindi il discorso è quello. Poi ha usato l'alluminio, va bene, lo stesso, costa di meno, e quindi non è conduce quanto il rame, quanto l'argento, quanto l'oro, però va bene lo stesso. Se ti ricordi bene, ho uscito le antenne della Midland placcate in oro, sono uscite quasi un anno e poi sono state subito la circolazione perché ne hanno tutte quattro fregate. Ne hanno tutte quattro placcate in oro, erano addirittura. E poi proprio non beh. A parte che era molto pericoloso per le... quando c'era tempo l'aria, ma comunque va bene così. Le antenne vengono fatte comunque in alluminio perché è giusto compromesso qualità-prezzo, sono quelle che irradiano con una certa facilità e soprattutto raffreddano velocemente, tant'è vero che se tu guardi i dissipatori anche dei lineari sono tutti in alluminio, perché l'alluminio è vero che scalda velocemente ma altrettanto raffredda. Il rame è un ottimo conduttore, costa poco, lo stesso qualità-prezzo, cioè qualità-prezzo, potere dissipante con prezzo è ottimo ed è per quel motivo che lo utilizzano soprattutto per i cavi elettrici. In oro sarebbe un po' eccessivo, poi bisogna vedere se riesce a irradiare l'oro, perché è vero che è un buon conduttore, ma bisogna vedere se vibra, va in, come si dice, in risonanza. Avanti break. Buonasera Claudio. Cosa mi è successo? Ho messo incinta, è la ora. Cosa ti è successo già? Hai messo incinta la vacca? No, oh, ma è segato. Con questo lineare mi spegne la macchina, ragazzi. Ho detto che se non l'accendo la macchina. Stavo andando. Sì, adesso dici che accendo. A zero, cazzo. Rischiaccio. E rimetto uno più basso. Mi spegne la macchina. E qui non sarà così potente a spegnermi la macchina, no. Che succhia tutta quell'energia. E cos'è più? Una peccola, posso lineare. A spegnere la macchina. Ma è una buona. Cosa ti avevo detto? Cosa ti aveva detto il Grodde? Scusate, mi ha detto che me la spegneva, cazzo! Me la sta buttando a terra, cioè ero in quarta. Ho detto, vedi che l'accendo, che sono i movimenti, minchia, mai l'avessi acceso. Bene, si è spenta. Due, tre volte mi si è acceso tutto il quadro, motore, contagiri, ali. Infatti domani ce lo provo, mi sentirete più basso. Ah, gli si è spenta, mi ha pigliato fuoco. Vai. A Venucci, il ruolo sta pompando di brutto, Venucci, dato una carmana, Venuccito. Grazie, Gigi. È arrivato 9:30 tu a me, come mai, dove sei? Ma mi sto polpando con questa roba, è troppo forte, mi ha buttato la macchina. Stai operando perché? Ascoltate, guardate che c'è più certo pure modulente, a me mi fate del fotoscala, rispondetevi. Ma io sento la grande, Vinocento Ermolo, ho dato la chiamata a Vinocento Ermolo, buonasera, ben sentito. Che hai fatto, Vinocento? Abbatti altrimenti così, oh, io non c'è più l'ascolto e avvedi il nuovo ascolto. Non c'è nato. Iaia, che sta parlando più non c'è. Finito, la stavi vincendo già. Mi toglie completamente dalle marce la, quando schiaccio la portante. Ma te la ricordi Antonio Falché? Oh. Ma te la ricordi questa registrazione col telefonino? L'ho sentita a Piazza Lescelli una volta. Eia. Ma confusi, ma credo è Gesù Cristo. Ciao, per un certo modo, buonasera, ben ascoltato. Vai, coccate, vai. Vai, coccate, ma no. Cazzo, ti si riconoscerà. No, oh, 2 chilometri di distanza, cazzo. Ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Io ti sei mai niente, mo, grufica da te sì. Ui, ui, ui, sta attento di aver fatto. Non è un problema quello, no, più no. Perché sono convinti che la gente è ignorante, no, non si ricorda le cose passate. Ai. Un chito geniale, cazzo, mentre ci faccio. E continua, a bu giramenta. Ai. Va bene. Non c'è problema, non ti preoccupare, non stai disturbando nessuno, stai solo facendo ridere, comunque. Continua che già sei bello, sì. Avanti lui riprende che ti vuole Gigino, ma ti vuole Pinocchetto. Io lo salutiamo a Pinocchetto. No, voglio andare un importante, ce la metta, mi fa che. Lascialo qua, lascia. Ciao Pinocchetto, no, dai. Sperando che in questo messaggio mi ascolti, Pinocchio. Continuo da Cimo Domenici. E se non lo posso capire. Come ve lo dico, però. Anche se ha fatto la pennacchia, Pinocchio gli passava sopra lo stesso, mi davo d'uso. Lasciatelo. Oh, Pinocchio, la cosa è un po' tricola, capito? Comunque ti ascolto lo stesso quando ci stanno problemi, dai. E questo è un regalo che mi ha fatto un amico, capito? Un giorno mi portò un amico e lo voleva buttare via, capito? È un regalo che mi ha fatto un amico questo, hai capito, Pinocchio? Questo è straniero pure mi darebbe. Ma arriva un 7-8. La portata è 9, ma è un pupazzo, non fa niente a Pinocchio, lo sento lo stesso. Bastardo di merda, cazzo, da poi si la metta, no, complice, da poi si la metta, esci a venire, cazzo, allora mi posso, cazzo, tu sono, cazzo. Signori, moderiamoci, se non è il caso. Veramente questa volta veramente ha perso. Qui che viene? E dove mi viene? Usciamo una... E giocando con lui ci fate male la giura. Ma ve lo faccio venire alla radio. Questa è poco ma sicuro. Questa volta sta oltre a vedere... ormai l'acqua a oltre... è arrivata al culmine e non va bene. Quando si arriva al culmine non va bene. Se lo so schifoso il piazza. Figlio di c'è qualcuno. Cosa hai detto Gigi? Pisciato fuori dallo stiglio. Ma te ne intendo l'incendio alla radio, vedo. Mi vergogno che c'è un amplificatore in mano. È un anno che non lo uso. La radio l'incendio non lo sento, certo non faccio parlare neanche con la... con quello che ha più vicino in tutti qua. Signori. Signori. Sono io che cosa? Ah, lo so, lo diceva Totò. Signori si lascia. Ma a questo punto bisogna fare il prepotente come pensa di fare lui. Ma cosa vuoi? Ma non potevamo fare. Cosa vuoi superare? Non c'è. A chi non supera già noi? Guarda, manco di cadere. Va bene, io rimango in quella. Se non mi io è questa, non bisogna cadere nella provocazione. Cosa vuole ottenere questa persona, che, di cui non conosco certamente il nominativo e non lo immagino minimamente, però dico di sovramodulare. Il fine di sovramodulare è quello di fare incazzare qualcuno, scusando il termine, e ci sta riuscendo. Allora non è il caso, come ha detto Falchetto, signori, si nasce, e allora noi lo nacquimo, si dice così, eh. Per macchia. No, te l'ho chiamato proprio pronto. Eccolo presente. Italiano, eh? Ma ti sai che sta chiamando italiano, italiano? Mi ha chiamato. Oh, grande. È presente. Quando sono andato qua per Marte, mi ho fatto sparire quattro le persone. Sono sparite completamente, se non mi attenete loro sono scappati. E lui dice, se mia figlia che lui lo faccio scappare dalla 27. Così le segno un cometto di rogazione. Qui non c'è bisogno, le persone si eliminano da sole. Vedete, è proprio questo che io vorrei evitare, perché la radio deve servire a qualcos'altro, non a fare giochi di forza. Intanto chi è intelligente rimane intelligente, chi è stupido rimane stupido, chi ci perde è l'intelligente che si abbassa a questi livelli. Ma no, la forte la vince, io sono di quelli così, capito? Se non mette su Sassari, su Polottore, su Alghero, la portata, usiamo la crucetta nuova che stiamo con l'Abuduso, lo passa lo stesso e non ci sono problemi, perché lo sento sotto, ma lo sento, ma mi dà fastidio, capito? Mi dà fastidio. Solo quello può fare lui, attaccarsi alla gente che c'è il segnale basso e basta. A chi altro non può fare? Comunque io rimango in quelli che sì, perché non mi va neanche di continuare il discorso, eh. Non riesce a farmi incazzare, quindi preferisco stare silente. Però ti avviso, comincia a mettere il radio dentro l'armadio, anche tu non mi va bene di più, eh. E se te lo dico io, sai, pur certo, che non so, non è Falchetto di Antonio Grode, io te la pongo a pieno la portata, ma se te la pongo io, le tranquillo, ti te ne più nessuno, manca Sassari. Signori, dobbiamo, ci abbassiamo i toni. Voglio togliere il numero delle nostre che sappia, quando c'è la portante, 9.40, tutte le parti che voglio sparire. Ci rimasciamo a chi? Guarda, non ricappato, grazie. Audio, un attimino di servizio. Va bene, va bene, va bene. Falchetto. Dimmi, chat. Ho causato la... Non so, ho detto qualcosa di male. No, no, no, non è riferito a te, Gianni, non è riferito a te. Mi sono spaventato, mi sono cazzo di dire che sono diventato antipatico. No, no, no, no, no, non è quello il problema, non è quello, non ti preoccupare. Va bene, ok, adesso sono più tranquillo, dai. Già, ma cosa, registratevi questo segnale, che... Siete un po' carico, te lo può far vedere con la bocca, registratevi questo segnale. Vabbè, schiaccia, ragazzi, parlate, schiaccia, si compresi lì. Va bene, ragazzi, si trovava, ci vuole vedere di te. C'è qualcuno di noi, io non sono. Registratevi questo segnale, non ce n'è altro nessuno stasera. Io stavo ascoltando, ho montato il microfono. Registratevi questo segnale prima di aprire la bocca e via. Cortesia, per cortesia, signori, un attimino di bianco. Cortesia, un attimino di bianco. State cercando qualcuno dei miei amici. Mi state cercando. Allora registratevi questo segnale mio e poi gli altri registratevi tutti. E punto, e finita il discorso, non lo voglio più prendere, anche se davanti mi attendi, a me le minacce non mi piacciono. Qua non sta rompendo le palle a nessuno, né qua né i miei amici, che parlo io. Ok, chiuso il discorso, non sto né minacciando né niente. E quando ci sentite, segnatevi i segnali nostri, almeno la smettiamo, finito il discorso, non lo voglio più riflettere. Il discorso è che si sente alto, che si becca, ma si sente, a quanto pare. Posso chiedermi gentilmente di abbassare il discorso? Sto cercando. Oh, tranquillamente, non ci sono problemi. ci stanno problemi. Che vada a modulare il suo canale, non parla. Vabbè, lasciamo perdere. Smettiamola con questa cosa, eh. Ma qui ho portato e non espongo. Io se devo con una persona, io tratto rimane, non tratto la portata. Né io e ne penso che. Cazzo rimane là, è così, mister universo. Ne la vedo, ma Buffoletti, sì, ma cazzo ve la vai, ve la vedo, cazzo, che cavolta. Gentilmente, bombolo. Ve la vedo, cazzo, ma allora siamo ve la vedo, siamo oggi, o no? E far che? Cazzo, Leano! Aspetta un attimo, guarda, non ti ha cercato nessuno, Antonio. Poi rimani tra le cure, puoi trattare ancora, ma so che non sai manco che so. Quindi rilassati, entra tranquillo, che nessuno sta parlando di te, non ti peccare e non ti permettere mai più di entrare in questo canale a provocare la gente che non sei nessuno. Quando sei cresciuto forse puoi parlare con le persone, ho cercato tra le mani e farà bravo. Stiamo parlando di altre persone che non hanno niente a che fare con te. Non siamo a te, tanto di morire importante. Quindi farà bravo e stare tranquillo e sereno, ascolta quello che devi ascoltare e non rompere scatola a nessuno. Io sto dicendo solo una cosa, non lo voglio più dire perché io con voi non ci voglio neanche parlare, primo. Ma si va a vedere, però, che c'è il problema? Che stai parlando, stai rompendo le palle, cazzo, che c'è il problema? Con tutti. Quindi io vi do la garanzia che noi non siamo, punto, finito lì. Ma che cazzo garanzia, rompe sua cozzone, sì. Oh, Momolo, gentilmente, posso parlarti un attimo? Sì, vai, tranquillo. Momolo. In un altro canale mi fanno, non qua, non voglio più parlare qua. Vai, cazzo, vuoi più parlare qua? Che cazzo da ter parlato a te, luce, la ci compresso io. Conosco tutti. È un testa di cazzo che sta girando e mi sta rompendo pure i coglioni a me, dall'altra volta che mi sta rompendo i coglioni. Ve lo sto dicendo, dall'altra volta che non ne posso più neanche io. Quindi chiuso il discorso, non voglio più parlare. Non ce l'hai, chiederti, Bombolo, gentilmente sali di 5 canali, vai al 15. Ma chiari dai, cattivo, mi sto stufando veramente, cattivo, non posso entrare e auto incolparsi di cose che nessuno. Per carità, cattivo. Per carità, guarda. Io una cosa allucinante sono 27 volte. Ui, guarda, Luigi, riprendi tu, Nagio, la terra in faccia. Io è Caparroggio, dai, non lo so, non lo raccio io, non lo so. Oh, poi questa portante, va bene, era debole, a parte ci sono giorni che c'è qualcuno la mette un be alta e rompe altre cose che ho sentito anch'io un giorno questa persona che ci stavo parlando e mi ha confidato a qualcuno che aveva questi strumenti, che faceva questi cambiamenti di come fa questa specie di interferenza, capito, stava dicendo. E poi ho sentito delle cose che sono state fatte in radio e poi l'ho sentita che l'ha fatta questa cosa, l'ha fatta, non dico cosa, ma l'ha fatta e l'ha fatta questa cosa, diciamo, che è identica a quella che aveva fatto qualche giorno prima un'altra persona che la mandava come portante questa cosa, no? Non dico cosa, però la mandava come portante, la metteva questa persona. Poi questa persona parlando ha fatto la stessa cosa, l'ha detto mi disse, ti faccio questo, ti faccio vedere, ti faccio sentire, ha fatto la stessa cosa. E mi ha detto, ma come mai? E ha fatto la stessa cosa che aveva fatto il giorno che ero in ascolto e metteva la portante. E lui, ma questa è una cosa vecchia, siccome nessuno lo cerca, e quindi se ne deve stare nel canale suo, non rompe le palle alla gente. Finito. Cosa stai lì a telefonare alle persone ogni volta? È convinto che a me non me lo dicono le cose. Telefoneggia Guido, telefoneggia Guidato, stanno parlando di me, l'importante non sono io. Ma sbattiti altamente le palle, vivi e lascia vivere. Ma cosa ti napputi di stare chi vi ha piccati a entrare nel canale a fare questi discorsi del cacchio che non servono a niente? Ognuno è libero di fare quello che vuole. Quando uno dice, Antonio Mauro, sta mettendo l'importante, allora lui può intervenire, ma nessuno l'ha cercato, quindi perché devi peccare come detto Antonio? Non si becca male si sente, no? Di assassini. Quindi, non è quello il discorso. Siccome sta portando e sta girando le guardie un po' a tutti, un po' solleva segnale, un po' bassa segnale, io per dire ho dei segnali bassi nella zona di Antonio, ma non mi permetto di dire Antonio, non me ne frega niente, perché non mi interessa, non mi disturba, non mi interessa, capito? Però, ho dei segnali già rilevati, scritti, dove ho un riferimento. E il giorno che io sento questo riferimento, vuol dire mi comporterò diversamente. Punto e basta. Ma non è che si fanno nomi, l'importante non è una cosa facile da scoprire. Con tutta l'esperienza possiamo avere, chiunque di noi, non è facile da scoprire. Non è assolutamente facile. Ok, si scopriva negli anni 70, 80, quando eravamo quattro gatti, e allora si cercava di uscire pian pianino, in sordina, e vedere andare sotto casa di chi stava modulando per vedere se era quello. Ma non è così facile, perché ti ripeto, come ha detto giustamente lui, che le stava rompendo le palle tutti i giorni, è una portante che chissà chi cazzo è, e la mette un po' a 9, un po' a 9, 10, un po' a 9, 20, l'altro giorno qua a me, mi copriva tutti, tranne Antonio Pomponio e Falchetto, gli altri non passava nessuno. Capito? Quindi non posso dire la portante della Teroce, è la portante dal Monte, è la portante da lì, posso dire la portante dai paesi qua vicino a me che mettevano tutti a fondo scala, ma non posso dire la Porto Torres e la Sassari, cosa ne so io dove? Bisogna stare attenti a queste cose. Quindi dobbiamo finirla di incolparci uno con l'altro, perché ognuno è libero di parlare nel canale dove vuole, nessuno impedisce. Io con Antonio Uomo non ho niente a che fare, non mi parlo in 27, e quindi lui ha il diritto sacrosanto di parlare con chi vuole lui, e io ho il diritto sacrosanto di parlare con chi voglio io. Nessuno cerca lui, lui non deve cercare nessuno, punto e basta. Quindi noi possiamo dire lui è quello o quell'altro, non dobbiamo attaccarci fra di noi, dobbiamo andare avanti per la nostra strada, la portante, chissà chi è, io ho un riferimento e dico quando ho quel riferimento non lo faccio più parlare, perché vedo quel segnale che arrivava da sera, lo distruggo, ma lo distruggo proprio, capito? Lo distruggo, e quando io dico distruggo, a chi muovo un chilo va attaccato e non fa vedere né un sasso né un fiume. Perché ho quel riferimento, ma il riferimento che ho io non è quello che ha detto Antonio entrando, guarda così, guarda qua, i riferimenti sono tanti, ma io ho quello e quello distruggo, punto, ok? Io. Dimmi Antonio. Le cattature. Aspetta un attimo, Flavio. Sì, ha già detto dimmi. Non mi sembra il caso, io credo che oggi abbiamo pareggiato con ieri abbiamo fatto un ottimo QSO, dico abbiamo dimostrato che la frequenza sta cambiando, ieri abbiamo fatto due passi in avanti, oggi ne abbiamo fatto tre indietro, gentilmente abbassiamo i toni del discorso, capisco che quando si è nervosi anche il mio modo di vedere le cose possa anche irritare, perché un attimino è troppo calmo, però dove vogliamo andare così? Lui, io non sto dicendo niente Antonio, per carità, lui ha tutti i suoi motivi, giustamente, e ce l'ha perché ha il diritto di parlare, giustamente, perché tu sei convinto che quando io non parlo non sono ascolto, l'ho visto l'altro giorno, che mettevano portante a lui, a Gio Maria e altre persone, ok? Quindi io sono attento a queste cose, e sono giorni che sta portando a prevale un po' su di tutti, un po' è 9, un po' è 9, 10, un po' è 9, 20, come diceva poc'anzi, l'altro giorno non sentivo assolutamente niente, perché mi volevo con Falchetto, con Antonello, e fortunatamente sono vicino a me con Antonio Romeo. segnale che c'era anche poc'anzi. E quindi quando sento quel segnale non me la futti nulla. Quando io ho un riferimento di quel segnale, ve lo sto dicendo, metto portante con il kilowatt e non parla più nessuno. E io quando dico lo faccio, e non è che ho presunzione, pecche, o dire che ho le spalle più forti sasse, no, assolutamente no. Però i miei è la forza per poterlo fare. Un'antenna sul tetto, a 40 metri da testa, ma hanno rotto le palle, capito? La gente se vuole parlare deve accendere il baracchino e parlare, non rompere i coglioni tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, cazzo, la gente che sta parlando, la dobbiamo finire. E soprattutto dico finire, e non ci dobbiamo assolutamente accusare uno con l'altro, perché se io dico che sei tu che stai mettendo la portante, ti faccio nome e cognome, perché ho 40 anni in radio, capito? Che non mi avete messo nessuno. E quindi guarda, dobbiamo finire, perché altrimenti io me ne vado, prendo i baracchini, se butto la finestra, non me la butti più un cazzo di nessuno. Perché mi sono rotto le balle io, affrontare la gente, la radio di persone a 50 anni, devo andare cazzo a avere la cosa di attaccarmi cazzo con i ragazzini di 25 anni, ma stiamo scherzando, ma mi sono rotto le balle. Claudio, ti posso chiedere un maggiore rispetto per il canale e gentilmente di passare nel canale di servizio, per cortesia. Oggi. Cosa vita? Cosa vita? No, prossimo. Questo tranquillo, sereno, pacifico, puntato. Non vanno bene queste cose, no. Non vanno bene. E basta, ognuno sa quello che c'ha e se lo tiene, torna, quello che ti posso dire, quello che torna, mi è fatto finta di niente, purtroppo è così, sulla 27, c'è di tutto, c'è, e anche di più, è come andare da pesce in vendolo, che pesce fuori, lui te lo va, non c'è problema. Positivo, io non ci ho capito niente, comunque già va bene lo stesso, Fabio, hai capito qualcosa? Insomma, più o meno abbiamo capito. Sì, ma è così. Vabbè, dai, non aggiungo altro, non ce la aggiungere altro. Ognuno c'è il suo pregio e difetti, il discorso è quello, ognuno c'è il pesce suo, pesce lungo, pesce corto, ne torna a cosa, i difetti, il discorso è quello, ognuno ce l'ha e ognuno ce lo tiene, però gli altri non devono rompere male a fare quello che fanno, il discorso è quello, è tutto lì. Avanti Domenico, buonasera, ben ascoltato, se non mi sbaglio è lui. Oh, io vi saluto a tutti, buonanotte a tutti, ciao, a domani. Ciao, noi siamo a 144 quando lo fare. Ci sei aggiornato male, eh? KK. Ah, io guarda, c'è Domenico, ti sta chiamando, salutando, non abbandonare. Ciao, Clark, saluti. Alle prossime. Buona bocca l'aria. C'è una ragione che era lui. Visto, è Domenico, imbarrato. Ascolto, non ti preoccupare, ti ascolto. Fregatene. Ti va tutto bene, avanti. Ehi, ciao Domì, mi ha riascoltato, ti rientro Domì, ci saluta Domenico. Positivo, si è ammazzato di colpo adesso da me. Ciao Domì, ti sentivo ti ascoltavo bene, ciò che si è ammazzato di colpo, deve essere la zona, dai. Non so dove tu si, però prima ti ha ascoltato bene, poi ti si è ammazzato di colpo. Adesso tutto roggia una cosa, dai, ti ho riascoltato alla grande adesso. Sei arrivato alla grande. Ma che metto lavoro, Domenico? Come sbaglio? Sei allo stesso posto. Ma io lo sento così. L'altro giorno diceva che metto lavoro, non so che cosa. E invece ancora lavorando così. Vabbè. Voce di corridoio diceva quello. Positivo e grode, è rientrato qua, ha chiuso anche lui. E soltanto sono uscita, boh, non lo so, a un certo punto si fa girare i cosi, quanti comandano per certe certe cose. Positivo, un altro neurotesi, non lo so, boh, forse è andato a chiarire qualcosa. Boh, vedi io che sono calmo, tranquillo. Come me CB non ce n'è, la verità, anzi ci vorrebbe la verità, perché incazzarsi così a baracchino, quello facciamo, per dire, 5-10 anni fa, a un certo punto non conviene più, la mia vai a diventare, in quelle condizioni non saranno, tranquillo, di essere calmi, tranquilli, beati, e pigliarla come si deve. Il discorso è quello, le parole vanno vengono purtroppo, inutile pigliarsela, da come la penso io, lui, non lo so. Positivo, vabbè, ma anch'io me la manco per la telecamera e passa a me, quando mi tocca personalmente allora sì, però se non mi tocca personalmente non me la futti nunca a me, non me la prendo, dai, non me la prendo proprio niente affatto. Il discorso è tuo, sì, ma invece diversamente da me, quando mi tocca da me non mi passa manco per i coglioni, la verità, perché sono sposato, tranquillo, beato, con la casa mia, vivo tranquillamente lavorando, cosa del genere, di quello che pensano gli altri, la verità non me ne frega proprio niente, mi diverto, mi posso anche permettere di andare per dire, mio amico, e quindi sto bene, la verità sto veramente bene. Le baracche non vanno mai, è come penso io, poi portanti, non portanti, quello che non mi ritrae niente la verità. Io l'ho parlato una volta solamente magari non sapevo cosa lui, ce l'ho anche detto mi sembra, perché una volta mi aveva fatto perché diceva quello, ho detto una parola solo a chi, e quindi se l'ha presa e mi ha provato lo schiaffo per sbaglio. Cinque anni abbandonato, da quando ho detto no, mai più. Che poi ha bussato lui, ma ha bussato forte e infatti ha abbandonato tutto. E quindi da quel giorno ho detto no, mi dispiace, ma io per il malattino, facete preferire dentro dagli altri, non me ne fate più di meno. E quindi adesso prevale la ragione più che altro. Quindi di quello che mi dicono la gente, destra, sinistra, quello è così, quello è cosa, quello ti ha detto così, quello ti ha detto colà, non me ne fate niente. Sto bene, entra a destra, esce a sinistra. Io sono delle cose mie, quello che dico io è un conto, quello che dico agli altri non mi riguarda niente. E sto veramente bello, mi incazzo. Non mi incazzo più, perché bisogna fare così. A un certo punto bisogna fare così, inutile stare, mamma mia, portati, contro portati, mamma mia, meglio niente. Il telefono che sta squillando. Disordine, aspetta. Antonio, ci sei, qualche. Okay. Ci sono. Ok, posso prenderti? Cappa. Oh, no, ma posso non scrivere, ma sono sotto. Cappa. Buongiorno a tutti, adesso c'è un altro mio giretto, ciao. Gloria. Buongiorno a tutti, ci si ascolta. Ciao, ciao. Quello lì proprio potremmo operare quanto volevo, perché non lampionaggio, è bassissimo, è bassissimo lampionaggio che c'è quello lì, capito? Proprio basso basso. Gigi, guarda, non so cosa dirti, non so cosa dirti, l'ho preso alla CPC e c'è scritto dagli 8 ai 10 ampere, minimo, minimo, non massimo, minimo. E quindi ho detto, va, ho detto, tanto a casa non è. Poi qua la metto in macchina e proviamo un po' se riescono a sentirmi meglio, ogni volta mi sentono basso. Sono andando alla grande adesso perché mi stai sentendo molto bene, sono molto contento, però quando modulo mi anche adesso mi abbassato, mi si è accesa di nuovo, lo so che spia mi si è accesa, mi si è accesa la spia, quella gialla deve essere quella del motore, non lo so perché mi fa questo contatto oggi, mi tutto oggi ho fatto, non è che ce l'ho anni, oggi positivo, positivo, no, già sta andando bene. Bene, no, dovrebbe dare problemi comunque. Quante settimane la frusta, quanto l'ha fatto pagare? Lascia perdere, mamma mia! Secondo te da un esperto quanto potrebbe valere? Secondo te, da 1 a 100? 100 preso su dovrebbe essere 45 euro, massimo 50, ha preso su, a prezzo suo. Cosa? Nel mondo dei sogni! A te, 85 euro, 85, capisci a me, 85 dollari. CBC, vero? Allora è proprio, vabbè, l'ho comprato qualche anno fa, l'ho pagato 40 euro lì, me l'ha fatto pagare 40 a me, 40 euro l'ho pagato io lì, alla CBC. 747, me l'ho dato, c'era Claudio, l'ho dato a Claudio, l'ho pagato 40 euro, costava 45 e mi hanno lasciato 40. Ma negli anni cambiano, cazzo, ma veramente caro, caro, caro, caro, infatti gliel'ho detto a... Detto mi quando per la casa, anche, così ci organizziamo, andiamo assieme, visto che hai un po' di confidenza, così mi aiuti anche a prendere quelle, mi dici sempre i componenti giusti che potrei per migliorare la stazione di casa, l'ha visto? Sì, sì, già ci organizziamo. La macchina, no, se oggi ha fatto così, domani faccio delle prove, se mi porta di nuovo la macchina mentre io sono in movimento, assolutamente lo disistacco, perché non si può, no, non mi interessa, pazienza, metto quello da 40, piccoletto, andavo lo stesso, anzi sono contento, anzi con quello piccoletto ho fatto un collegamento, mi sembra che c'era anche tu, con quel Roberto di Meanazzato, da qua, da Chiaramonte, sono anche contento, quindi beh, la macchina già mi basta. Era un movimento, sono andato in piazza, stavo salendo su, se il mio pollicino. Niente, domani, poi ti dirò, dai. Senti, io l'ho regalato un paio di settimane fa, neanche pure due di quelli lì io. Di quel simile a quelli, dai, non ho un'altra marca, ma di quella portata ne ho regalato due. Capito, ne ho regalato due. Vabbè, io... Peccato, io per casa questo non va bene perché l'amperaggio è 8, il massimo, quindi questo ne succhia più di 10 e per quello non andavo bene, capito? Se io avevo la, come avevamo già detto, quindi è un discorso già preso, se avevo l'alimentazione giusta, se mi è andata la grande, perché faccio quella a due mesi come mi hanno consigliato, e sono tranquillo e faccio, così non devo andare a comprare senza alimentazione. Difficile, capito? Quindi mi sto un po' attrezzando come fa la formica. Positivo, dai, ti prendiamo una cosa per casa e la macchina lasciarmi quella che così a casa potevi modulare meglio. Una cosa più potente a casa potevi avere che è meglio della macchina. Sì, ma infatti io la penso che in macchina, perlomeno per l'uso che ne faccio e per le soddisfazioni che ho avuto con l'altra, con la trattoretta, mi mi andava più che bene. Anche più che bene. È in casa che io voglio. Non mi hai sentito. È bruttino, capito? Poi se ne passa anche la voglia di sentirsi. E vabbè, piano piano, dai, un po' da uno, un po' dall'altro, ci aiutiamo uno con l'altro, vediamo un po' di tirarmi fuori anche a me, dai. Voglia di imparare le 80, voglia di sentire che le 80 qui, non ci possibilità io qui. Positivo, dai. C'era qualcuno di ora che stava sopra un uomo, non so se qualcuno voleva entrare. Entrare allora, dai. Qui è un uomo di... Quasi sparito, il segnale è rimasto, ma quasi sparita la radio, cosa è successo? Microfono. Buona pillola sul finestrino. Ma non ho capito. Ma ne stavamo parlando una volta di trovare un microfono decente, perché quello che c'è l'originale è un pochettino più piccolo. Sì, vuoi sentire su 8-1 quello amplificato, lo vuoi sentire? Ma certo, dai, fammi sentire. Ma è rimasto nessun altro, tutti i canali sono andati. Buonasera Domenico, ho sentito come Antonio Barracuda. Buonasera Antonio Barracuda, buonasera. Ben sentito. Pochi, adesso non chiudiamo. Eccolo, già è vero, domani c'è da lavorare, domani c'è da lavorare, giustamente bisogna per forza riposare le ossa. Che si riposi. E dove sei adesso? Non mi sono fermato qua, sono andato poco, l'ufficio dell'entrata, capito? Ah, e dunque già è abbastanza vicino. Ascolta, una cortesia da parte tua per un controllo. La modulazione satura o va bene così? È bello, perfetto, è chiaro, bello, perfetto, è chiaro qua. Santiago 9, 9:10:30. Perfetto, no, perché siccome mia moglie quando si mette a modulare tocca sempre, tanto visto che c'era una regolazione l'ho sistemata, perché quando ero in viaggio stasera sentivo satura e sicuramente ha toccato il Michigan e l'ho regolato. Comunque va bene così, dai. Sì, già vicino. Sì, ho detto, è qua, non si scappa. E almeno la non devi fare un sacco di strada per entrare a casa, ormai già sei a casa sempre, dai. Almeno sei più tranquillo. qua, micidiale. Non lo stai uscendo già? Senti adesso? Adesso sì. Perfetto. Ho detto a Gigi che è fondo scala. Non so neanche più. A me arriva 9.40 lo spinge, lui è 9.40. Gigi. Positivo. In questi ultimi anni, volentieri. A me, Gigi! Well, Gianni, buonanotte, ci si deve ascoltare, vai dove? Ciao, ciao! Certo che ti ascolto Domenico, positivo, dai. Va bene, grazie della buona notte, altrettanto, dai, alle prossime, ciao ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao, perché io esco lì, sono solo fino a dove arrivo. Era molti e lui. Da piccolo mi senza attaccare nulla, tanto vero, perché schiaccia i pulsantini e cambia, così togli tutto, lo fai normale. Ho lasciato solo il bip inserito. Quando capitano sempre non fastidio, non è il televisore, no, Spingono questi, ma la sorte deve essere che tolgono le cose, cioè tutte le spurie, capito? No, sono addirittura quella che era molto, mi ha detto che mi sentiva in tutti i canali, quasi quasi da qui, ti puoi immaginare. Ma dei picchi veramente allucinanti, ragazzi, se tu la faccia dei fatti, guarda, se tu lo metti a due fatti, c'ha dei picchi allucinanti, lo scendi di fatti abbassino, vedo che ho un rollo, te lo controlli, c'ha dei picchi allucinanti. Facevano l'acqua. abbassa quell'eco, abbassa quell'eco che mi sta entrando dentro casa, cambio. Sempre gli apparati che vanno sempre bene, tu cazzo, tu già lo sai, eh? Guarda, tu sei il numero uno dei maestri degli apparati, cambio. Sì, me lo sono fatto tante volte pure io, dai. Tante volte. è un volo 144, dai, quando lo fai, dai. E adesso ti sei abbassato, Massimiliano, ti sei abbassato, dico più pio pio, però già ti riesco a tirare fuori, cambio. Però già ti riesco a tirare fuori, Massimiliano. Tirando, però ti ascolto bene. Ok, dai, fatta la buona, Massimiliano, un buon tutto, dai, ci sentiamo alle prossime, dai, quando se coincide cambio. Ciao, Massimiliano, ciao. Buonasera a tutti. Avanti chi è?